Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Lo sapete quanti negozi hanno chiuso in Italia nei primi due mesi del 2014? 12.895 a fronte di sole 3.620 nuove aperture. Una cessazione su quattro, dicono i dati dell'osservatorio Confesercenti appena pubblicati, è un negozio di abbigliamento. Se il trend dovesse proseguire così, a fine anno le chiusure saranno quasi 18.000. Con questa premessa, questa settimana siamo andati a caccia di nuove importanti aperture nel mondo del retail per capire e raccontare su quali tendenze e con quali strategie si stia muovendo chi investe nel mondo del retail. Dal nuovo Italy Smeraldo al Brian & Barry Building, nome inglese, anima tutta italiana, passando per il Football Temple, tutto a Milano, città test in Italia per le nuove aperture, location prescelta da molti brand internazionali per i propri flagship store italiani, sempre più anche in previsione dell'Expo, capitale mondiale dello shopping. La mia compagnia è formata da Cristiano Ronaldo, poi ci sono pure Maradona, Diego Armando, alla Snyder Paese noi ci andiamo sperando, ma i soldi van persi giocando d'azzardo. Ora grazie all'Ipopescu, da sta dipendenza, ero come in gabbia Udini, poi ho preso foglie e penna, così ne sono emerso con coraggio e con pazienza, la rima oltre i consigli porta nuova potenza. Partiamo da Football Temple, un nuovo concept di retail tutto dedicato al calcio, 600 metri quadrati su tre piani, fresco di apertura in via Torino. Un negozio che vuole essere anche e soprattutto un punto di incontro per le future stelle del calcio italiano. Spazi per provare le scarpe su diversi terreni e addirittura sulla terrazza una football cage dove gli atleti si potranno sfidare uno contro uno. Ne abbiamo parlato con chi ha seguito il progetto dal punto di vista del brand e della comunicazione in e out store, Alessandro. Sandra Iovinella, Managing Director di Future Brand. L'obiettivo che ci è stato dato è di creare un concetto tutto improntato su un'esperienza per chi ama il calcio e per chi vive il calcio tutti i giorni, quindi dedicato prevalentemente a giocatori professionisti, le nuove leve del calcio, quelle che saranno le nuove star del domani, pensato per loro e per offrire loro un'esperienza di marca ed un'offerta di prodotto assolutamente innovativa. Quindi tutte le aziende che saranno presenti all'interno di questo punto vendita, e si tratta di Nike, di Adidas e di Puma, quindi i principali player del mercato, utilizzeranno questa destinazione di marca, questo punto vendita, per offrire il loro meglio. Il concetto gira tutto intorno a quello che è il pallone, che ha dato vita alla nuova identità partendo da un nome che è Football Temple, raccontata con un pallone che, esplodendo attraverso tutti i suoi pezzi, costruisce quello che è il concetto stesso di design applicato allo store. Ci sarà uno spazio all'aperto all'interno del quale si potrà fare un'esperienza viva di calcio, quindi la possibilità data agli atleti di provare quelle che sono le scarpe, di provarsi in varie attività che verranno svolte. La terrazza, tra l'altro, avrà una sua destinazione privilegiata per Nike, dove i giocatori avranno l'opportunità di sperimentare dei servizi ad hoc. Quanto sta diventando importante nel retail l'esperienza, la prova, il coinvolgimento diretto sul campo, usiamo questa metafora, del cliente, del consumatore? È diventata, mi viene da dire, l'esperienza più importante. Cioè, oggi sempre di più una marca non può prescindere dall'offrire un'esperienza diretta, un contatto con il cliente che non parla solo ed esclusivamente per la marca, ma per quella marca e che cosa può offrire quella marca al cliente medesimo. Per cercare di costruire una relazione stretta, diretta, improntata alla fedeltà e improntata al ritorno. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Questa settimana si sono aperte le porte anche del Brian & Barry Building San Babila, 12 piani per 6.000 metri quadrati di fashion, food, home decor, tecnologia, cosmetica e gioielleria. una boutique megastore destinata a fare concorrenza ai vicinissimi. Siamo in via Durini, department store del centro, rinascente ed Excelsior in primis. Un format multibrand replicabile nel mondo, ci ha spiegato il presidente del gruppo, Claudio Zaccardi. Si è concretizzata la possibilità di fare il negozio dei nostri sogni, cioè quello che noi abbiamo sempre pensato dovesse essere un negozio. Per noi un negozio è un grande mercato, deve convogliare tanti prodotti, tante sensazioni, tante energie. Deve essere un luogo che vuole attirare tanta gente per tanto tempo. Qual è il vostro target? Ah, il nostro target è chiunque, veramente chiunque, perché qua si può mangiare una piadina da 5 euro fino a una bellissima cena con il nostro chef all'ultimo piano, quindi molto trasversale. Tra l'altro in questa zona abbiamo a poca distanza Excelsior, abbiamo la Rinascente, si sta formando un polo di qualità per lo shopping multimarca. Assolutamente, ma anche di dimensioni importanti, cioè l'Italia è sempre stata il paese dei piccoli negozi, delle piccole città di grandissima qualità, ma tutto piccolo, e oggi è difficilissimo riuscire a sopravvivere con quelle dimensioni, cioè se non hai delle economie, dei flussi di persone che ti permettono di generare traffico, non si sopravvive. Noi pensiamo di essere diversi rispetto a loro, perché guardando loro abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso. Questo format è sicuramente replicabile, abbiamo già avuto tanti interessamenti, poi dopo li valuteremo, ma sicuramente 5 o 6 di questi negozi in giro per il mondo ci piacerebbe farle. Per voi quanto è importante l'attività di scouting sui brand? È fondamentale, questa è un'altra tendenza che c'è in Italia. Quando va un prodotto tutti a vendere quel prodotto, invece esistono tantissimi giovani, tantissimi brand nuovi di uguale importanza, hanno bisogno di essere visti. Coinvolti nel progetto come main partner oltre a Italy anche Sephora, che inaugura qui un nuovo concept, primo in Europa, secondo nel mondo dopo New York. Abbiamo puntato su assortimento e tecnologia, ci ha spiegato Antonio Ferreira de Almeida, numero uno in Italia del gigante francese della distribuzione cosmetica. È il nostro primo concept store in Europa. Quello che vogliamo con questo progetto è essere la più grande vetrina tecnologica nel mondo del beauty. Abbiamo un'offerta unica, un'offerta esclusiva, completamente diversa da tutti gli altri punti vendita, ma soprattutto una tecnologia immensa che non esiste da nessuna parte. E fare un progetto a Milano, capitale della moda mondiale, un progetto diverso di tutti. La possibilità di giocare coi colori, coi smalti, con le unghie su un computer, prima di provare sull'unghia, la possibilità di provarle sullo schermo del computer, il colorful, la possibilità anche lì di provare tutte diverse possibilità di trucco senza dover truccarsi con tutti i colori, il color wall, l'esperienza olfattiva di profumi, la possibilità di prima di andare a comprare un profumo scegliere le note predominanti preferite di una persona, tantissime esperienze nuove nel mondo della bellezza, nel mondo del beauty. Novità in arrivo anche per la grande distribuzione, anche in Italia è iniziata l'era dei drugstore, un canale in crescita, in controtendenza rispetto ai canali tradizionali, tanto che le insegne specializzate, quelle dedicate cioè ai prodotti per la cura della casa e della persona, vanno molto bene. La conferma arriva dalla partnership siglata da CRAI con Risparmio Casa. Ecco che cosa ci ha detto l'amministratore delegato di CRAI, Marco Bordò. CRAI, sapete che soprattutto col suo marchio si muove da sempre sul mondo del food, Risparmio Casa si muove all'interno del mondo drug, però con una proposta anche all'interno di questo mondo distintiva e innovativa sotto diversi punti di vista. Abbiamo trovato in questo la possibilità di fare sinergie business to business molto importanti sul fronte degli acquisti, dei rapporti con l'industria, sul fronte anche di tutte quelle che sono i servizi a monte che ci stanno dietro un punto vendita, dietro un CEDI, dietro una rete. E poi da lì siamo convinti che possono nascere anche diverse joint venture che possono arrivare anche al punto vendita e lo sviluppo della rete. Continuiamo a parlare di grande distribuzione per un'altra tendenza in forte sviluppo, l'urban farming. Codice a barre di Cristina Lazzati. L'orto urbano ormai è un must, idealmente coinvolge tutti. Terrazze e balconi si trasformano in piccole farm per produzioni di culture per il quotidiano. I pomodori sostituiscono i gelsomini e le erbe profumate i gerani. Lo racconta bene Martino Ragusa, scrittore, giornalista e autore televisivo siciliano, nel suo libro Orto e Mangiato. Offre consigli per rigorgliose coltivazioni casalinghe e ricette per impiattare quanto cresce sul proprio balcone. Alcuni azzardano anche l'apicoltura sui terrazzi, come a New York, dove persino il Waldorf Astoria può vantare al 20° piano un suo apiario che fornisce l'hotel di un centinaio di chili di miele all'anno. Ma le opportunità sono moltissime, su scala ancora più ampia. Infatti, dopo l'apertura di Whole Foods a Brooklyn, che in collaborazione con Gotham Green ha creato una serra sul tetto che fornisce direttamente il supermercato, altre catene si stanno attrezzando sfruttando il trend dell'orto urbano. E così Bright Farms, azienda newyorkese specializzata nella progettazione e gestione di serre per la grande distribuzione, ha annunciato l'avvio di due progetti con Giant Food e Roundy Marianos. Con il primo retailer è in fase di realizzazione una serra urbana di 100.000 metri quadri, la più grande al mondo nel suo genere, che produrrà vari tipi di verdura tutto l'anno per i punti di vendita del distretto metropolitano di Washington. Per Roundy saranno gli store di Chicago a venire approvvigionati di uno o più serre urbane a cultura idroponica. Tra i vantaggi dell'accordo, più occupazione locale e meno costi e emissioni inquinanti legate al trasporto. Intanto, a Singapore, grande successo per il progetto Sky Green, una serie di torri alte 9 metri che producono ortofrutta da vendere ai supermercati locali. Un progetto rivoluzionario per un paese che importa il 95% dei prodotti freschi. Rimaniamo in Oriente e andiamo a Tokyo, negli uffici di Pasona Group, che grazie a una sorta di giardino verticale produce alimenti che vengono serviti direttamente nella mensa aziendale. Costruito nel 2010, il giardino che ricopre la facciata permette un notevole risparmio energetico grazie al fogliame di oltre 200 tipologie di piante, tra cui anche alberi di aranci. Riso e vegetali crescono anche negli uffici e nelle sale conferenze, dove hanno sostituito le classiche inutili piante ornamentali. In Italia l'argomento è da prendere con le pinze. I limoni del mio terrazzo milanese sono indubbiamente meno sani di quelli coltivati su un terrazzo della Liguria. Così, se il giardino verticale di Porta Nuova producesse solo insalata, difficilmente potrebbe essere proposta negli scaffali dell'Esselunga di Piazza Gaeo Lenti. Ma l'urban farming è una tendenza da non trascurare. Può essere un passatempo per amatori e un business redditizio per esperti. Sicuramente il pianeta gradirebbe. Essere e avere. Fare un marketing mondiale identitario, italiano, e sempre di più narrare l'orgoglio della nostra biodiversità e il massimo della nostra diversità, che noi siamo, non per merito nostro, ma i campioni della bellezza del mondo. Italian Factor. Così Oscar Farinetti in occasione dell'inaugurazione del nuovo Italy a Milano nell'ex Teatro Smeraldo, il 25esimo super negozio in Italia e nel mondo, a quella che è diventata l'insegna simbolo del Made in Italy alimentare nel mondo. Dedichiamo una versione estesa del nostro appuntamento fisso con l'Italian Factor e con Francesco Morace, che ci ha raggiunto in studio come sempre. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio a tutti voi. Italy, tu scrivi Francesco, rappresenta il caso italiano più emblematico di affermazione dei quattro paradigmi e di applicazione dei 10 elementi. Li stiamo attraversando tutti in queste puntate per attivare l'Italian Factor. Perché? Ma intanto perché è l'esempio in questo momento più importante di unique and universal, quindi il paradigma che parte dall'unicità locale, che in Italia è così ricca, e che però poi, facendo sistema, riesce a proporre nel mondo una visione unica, compatta, legata proprio al vivere bene, al mangiar sano. Il famoso bello, sano e giusto, no? Che abbiamo detto tante volte, è alla base del nostro possibile successo nel mondo. Sentiamo allora che cosa ci ha detto Oscar Farinetti in occasione dell'inaugurazione. Lo spettacolo della nascita del cibo, vedi, qua vicino a noi stanno uscendo i tortellini, e i tortellini, tu sai che a Bologna sono sicuri che il ripieno deve essere di mortadella. A Modena, a 18 km in linea d'aria, sono altrettanto sicuri che deve essere di prosciutto crudo. Chi ha ragione? Bot, entrambi. È il bello della biodiversità italiana, che è la meraviglia, ed è lo spettacolo della biodiversità italiana. Qui cercheremo di fare lo spettacolo della musica. Una data simbolo per voi, il risorgimento di adesso qual è? Intanto il risorgimento è che rinasca l'idea creativa, che rinascano le imprese, e che nascano 350 posti di lavoro. Io penso che noi italiani dobbiamo sempre più fare un marketing, e quando io dico marketing non dico una parola vuota, per me il marketing è fisica, ci serve a vendere, serve a vivere tutti meglio. Fare un marketing mondiale identitario, italiano, e sempre di più narrare l'orgoglio della nostra biodiversità. E il massimo della nostra diversità è che noi siamo, non per merito nostro, ma i campioni della bellezza del mondo. E allora il centro di tutti i nostri pensieri, del nostro lavoro e secondo me della nostra Costituzione deve esserci la bellezza. E il compito nostro, della generazione nostra di italiani viventi, pensateci un attimo, due generazioni fa gli italiani, noi eravamo tutti da nascere, hanno fatto la resistenza e il miracolo economico del dopoguerra. Cinque generazioni fa hanno fatto il Risorgimento, 1848. 16 generazioni fa hanno fatto il Rinascimento. Pensate che meraviglia il Rinascimento. 72 generazioni fa, cioè l'altro ieri, eravamo i padroni del mondo e inventavamo idee, bello, il design, il de qualcosa, cioè il progetto. Tutti gli umani del mondo si comportano secondo delle regole che hanno inventato gli italiani 72 generazioni fa, il concetto del design, del progetto. Quindi questo, noi come popolo di italiani attualmente viventi abbiamo secondo me il dovere di tutelare e se possibile migliorare la bellezza che ci hanno lasciato i nostri avi attraverso il lavoro, quindi il lavoro che da oggetto diventa mezzo. La ricetta di Farinetti per il rilancio del paese. Non ci sono delle ricette. I paesi che ce la fanno nel mondo hanno due caratteristiche: forti esportazioni e coscienza civica. Pensate alla Germania, pensate all'America, agli Stati Uniti. Sulle forti esportazioni ci possiamo arrivare bene, abbiamo sotto il nostro sedere dei giacimenti petroliferi di bellezza che fanno spavento, dobbiamo solo lavorarci bene. Possiamo raddoppiare le esportazioni agroalimentari, possiamo raddoppiare il numero di turisti stranieri in Italia, possiamo ancora aumentare secondo me il 40% le esportazioni di moda, di design e dell'industria manifatturiera di precisione. Questo si può fare secondo me senza grosse difficoltà. Dobbiamo migliorare la coscienza civica, cioè dobbiamo mettere coscienza civica, avere senso della cittadinanza. Sai come si diventa con la coscienza civica? Attraverso un buon esempio di chi sta sopra di te. Pensa alla famiglia: se papà e mamma si comportano male, anche i figli si comporteranno male; si comportano molto bene, anche i figli si comporteranno bene. Quindi bisogna che nelle posizioni chiave del nostro paese vadano persone per bene che ci diano buon esempio. La squadra di governo adesso le piace? Le piacciono tutti? Molto, molto. Io non li conosco tutti. Posso dirvi che chi conosco abbastanza bene è Martina, questo agricoltura, bravissimo. Bravissimo, con tanta voglia di fare, uno che si sveglia presto mattino, uno si dà da fare. Era già sottosegretario. A me lui piace molto. Secondo me farà delle belle robe sull'agricoltura, tipo adesso lanciare il marchio unico Italia per le esportazioni. Abbiamo bisogno di ridare fiducia, abbiamo bisogno di pensare che ce la possiamo fare. E sentite un po' cosa ha risposto Oscar Farinetti a chi gli faceva notare che il cibo, i prodotti di Italy sono cari. Il gap tra il cibo di grande qualità e il cibo di bassa qualità è bassissimo, è il più basso gap di tutti i beni. Cioè tu pensa un attimo alla differenza fra un orologio di grande qualità e un orologio di bassa qualità, pensa al gap. Pensa al gap tra un abito di grandissima qualità e un abito. Pensa al gap tra un'automobile. Il gap tra una pasta scadente e una pasta di Gragnano estrusa a bronzo, essiccata lentamente, di 20 centesimi a piatto. Il gap tra un olio, una bottiglia di olio e un'altra, ogni volta che gli metti un po' d'olio, è 0,05 centesimi. I cibi di alta qualità, in realtà, in termini assoluti, costano pochissimo più degli altri. Quando tu mangi un prodotto di grandissima qualità, tu rallenti la masticazione per goderne di più. È provato. Rallentando la masticazione, perché il cibo è orgasmo, per goderne di più, il senso di sazietà arriva prima e tu mangi di meno. Mangiare cibi di alta qualità fa dimagrire. Poi, quello che spendi in più nei cibi di qualità lo spendi meno in salse, in porcate, in merendine. Ma guardate, secondo voi costa più una merendina o il mio pane con un po' di burro normale? Di più costa. Sai quanto costano i chicles? 113 euro al chilo. costa niente mangiare bene, niente. Stiamo convincendo sempre più gente a mangiare bene. Italy cresce a doppia cifra. Tu puoi venire qua, tu trovi sempre una pasta da primo prezzo, un olio da primo prezzo, un pelato da primo prezzo. Noi abbiamo vari livelli, vari livelli. Noi abbiamo la pasta da 2,80 euro mezzo chilo, ma la pasta da 0,99 mezzo chilo, che è una pasta comunque di Gragnano fatta bene. Poi basta spendere meno in altre puttanate. Lo sai che la telefonata, cara sto arrivando, butta la pasta, costa più della pasta? Lo sai quanto costa l'autostrada Torino-Milano? Costa come 27 kg di zucchine in stagione. Sai quanto costa parcheggiare un'ora là? 4 kg di pasta, un'ora, ma c'è follia. Francesco, lo abbiamo sentito, in un luogo storico per l'intrattenimento anche il cibo da spettacolo. Proprio il fatto di mettere in vetrina, di raccontare l'artigianalità del cibo, così come la sua filiera, è stata una delle carte vincenti di Italy. Sì, e infatti qui incrociamo il secondo paradigma, il trust and sharing, cioè l'idea comunque della convivialità, partendo da una credibilità e da una qualità che viene in qualche modo garantita da Italy e che però si propone non in modo neopauperista, serioso, ma con spazi che sono spettacolari e conviviali. Le persone possono non solo acquistare i prodotti, possono consumarli, possono incontrarsi e anche accedere a questa dimensione educativa che è molto importante, a cui Farinetti tiene molto, e che è proprio insegnare ai giovani, ai ragazzi, anche ai bambini, il mangiar bene e nello stesso tempo il divertirsi. Veniamo all'ispirazione. Che cosa Italy può insegnare ad altri brand, magari anche non del settore? Io credo che possa insegnare questa straordinaria possibilità italiana di essere quick and deep, ecco il terzo paradigma, cioè di essere tempestivi. Queste aperture nel mondo sono curate nel minimo dettaglio, ma sono anche l'espressione di un dover esserci in Italia in questo momento in modo veloce e profondo. Quindi l'elemento dell'occasione felice, credo che questo sia il maggior insegnamento che Italy può proporre a tante altre aziende italiane, piccole, medie, grandi, che a volte non sono consapevoli di questa loro possibilità di stimolare i momenti felici di vita. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia a Roberto Scaltritti. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, sezione programmi, così come dalla nostra pagina Facebook, dove troverete anche una serie di contributi aggiuntivi, immagini, link e video. Tutto questo in attesa di risentirci sabato prossimo alle 16:30. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.